lights are on. Con puntualità praticamente svizzera inizia prove tecniche di trasmissione. Consueto appuntamento del mercoledì sera qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Un appuntamento che andrà avanti sino alle 22.30 circa, allorché poi naturalmente ci sarà 25 o'clock. Questo è uno spazio esistente dal 1992 che tratta di sonorità vicino all'industrial, all'ambiental noise. E il cui telefono, chiaramente, è quella della radio, 0649 1750, sito internet che www.ondarossa.info, anche per usufruire del nostro streaming e per leggere le notizie contenute nel sito stesso. Ringraziamo tutti quelli che hanno accettato di collaborare attraverso il crowdfunding per comprare il nostro trasmettitore, operazione andata a buon fine, tra cui ringraziamo dunque Raffaele, Nicola, che salutiamo anche adesso, e tutti gli altri che hanno aderito. Naturalmente rimane sempre attivo il conto corrente postale, che è 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, rivolgi 56 00 185 Roma. Un saluto anche ad Alessandra, anche lei ha aderito alla campagna di crowdfunding per il trasmettitore di Radio Onda Rossa, la salutiamo. Salutiamo anche Riccardo in quel di Taranto. Quindi torniamo dopo una settimana di assenza e riprendiamo in parte da dove avevamo lasciato, ossia questo cantautore, chiamiamolo così, una sorta di cantautorato evoluto. Lui è Alberto Nemo, proviene da Venezia ed ha al suo attivo due lavori, 6x0 live e un 6x0 in versione studio, però con tracce completamente diverse. Il tutto esce attraverso il Dimora Records e la New Model Label di Govind Surana. Un artista che personalmente mi ha fatto ricordare i Coil più intimisti e anche Anthony and the Johnsons, soprattutto per quanto riguarda le estensioni vocali, ma anche Gordon Sharp dei Cyndi Talk. Insomma, per chi ama certi suoni credo sia interessante andarci ad ascoltare e a conoscere ancora meglio anche Alberto Nemo. Lo facciamo attraverso tre brevi tracce, Yamais, 31 e Emama. Ancora Alberto Nemo da questo 6x0, sul quale andiamo a salutare Davide qui da Roma, come da Roma anche qui Luciano FM. E naturalmente Raffaele Pezzella in quel di Napoli. Era dunque questo Alberto Nemo 6x0. I più attenti avranno notato che Alberto Nemo canta all'inverso, semplicemente all'inverso, e anche il bel cofanetto che contiene questo CD, ci sono delle frasi scritte all'incontrario, tra cui una: ho amato un Alberto che non esiste. Ecco, l'abbiamo decifrata ora. Dunque, Alberto Nemo, ennesimo artista e talento proveniente da Venezia, al pari di Wara Wara Washington, che stiamo invece analizzando in sede di Disorder ogni lunedì sera. Un saluto anche a Stefan, proveniente da Strasburgo, una new entry per quanto riguarda gli ascoltatori. E un saluto naturalmente anche a Govind Singh Kurana da Ferrara. Concordiamo con Alberto, con Nicola, scusate, effettivamente Alberto Nemo è una interessantissima scoperta, e da qui a breve, nelle prossime settimane, ci ascolteremo anche un 6x0 versione live, forse leggermente meno minimale di questo, ma ugualmente valido. Andiamo avanti, e un'altra nuova e importante uscita, l'ultimo lavoro per i Soli Invictus, un vero e proprio pezzo di storia, più o meno di area neofolk, anche se mi rendo conto di limitare un po' il raggio di azione di Tony Wakeford. Ultimo lavoro, e qui abbiamo la versione, diciamo, di lusso, un doppio CD, si chiama Necropolis. Dal primo CD ci ascoltiamo le prime quattro tracce, che ci danno un Soli Invictus particolarmente ispirato, aggiungo io. Appunto, Necropolis, Portal, Nine Elms, Old Father Thames e Sea Dam. Oh, the rain. In what I saw a robin swing into a peacock spread his tail. In three I heard the nightingale. In four a white owl hit with crab. In five a green woodpecker laughed. In six a ringdove cradled low. In seven lived a crawling crow. In eight a million starlings flew. In nine a cuckoo said, cuckoo. Serpent in the bosom of London, the Thames. Serpent in the bosom of London, the Thames. Serpent in the bosom of London. The Thames, the serpent in the bosom of London, begins in one or more boggy fields in Gloucestershire and ends in Southend at the Crowstone, an obelisk set in the sands to mark the boundary of the port of the London Authority. Less imposing and considerably younger than Cleopatra's Needle near the Waterloo Bridge, it still bears an uncanny sense of history as the tide goes out, revealing it like a spire from Atlantis or the Corpse City. The Radio, the serpent in the bosom of London, the Thames, the serpent in the bosom of London, the Thames, the serpent in the bosom of London, the Thames, the serpent in the bosom of London. In 1820, Frederick Marriott, Captain HMS Rosario, for the purpose of bringing the news back to Britain from Napoleon's death in exile at St. Helena. A respected sailor and author, he later wrote about Thomas Saunders, fictional and archetypal mudlark, with his life on the Thames, from digging up coins and scraps on the river's foreshore, to becoming a pilot, navigating trading vessels through the labyrinthine docks and mudbanks. Marriott was running against the tide. The Victorian artists who were more fascinated in the river that brought death rather than life. The medieval Winchester geese continued to haunt the river. G.F. Watts painted Found Ground. John Everett Millais Bridge of Sighs, sharing its title with Thomas Moore. All were artistic reactions to the working girls, brought low by disease, pregnancy or despondency, were found floating dead in the river downstream from the old dock bridge. The Thames, the serpent in the bosom of London. Ancora Sol Invictus da questo Necropolis con la splendida voce di Tony Wakeford. Salutiamo Govind Singh Kurana da Ferrara. hidden from the sun, a scent to slaughter. Clean is a hand that stays in its glove. Away from the blood of the lamb and dove. See them come, see them go, see them come, see them go, see them come, see them go, see them come, see them go, see them come, see them go, see them come, see them go, see them come, see them go, see them come. Precious the dreams that are snatched. So often the egg is never hatched. In a small room behind the stars, an old man drinks and shuffles cards. He treats some like sons and daughters, others hidden from the sun, ascend. Un saluto anche al buon Gustavo in quel di Ostia, e sta scorrendo e sta finendo sotto la mia voce questo ultimo lavoro per Sol Invictus, si chiama Necropolis. Salutiamo intanto anche Like Wake, valente musicista anche lui di Roma. Necropolis, che come ho già detto ne esiste anche una versione deluxe autoprodotta dallo stesso Tony Wakeford. I'm bad. Mentre la versione normale esce attraverso l'Auerbach Tontrager, un'etichetta alquanto attiva che ha dato le stampe, peraltro anche l'ultimo lavoro dei nostrani Spiritual Front, che sentiremo prima o poi. Tornando a Necropolis, un buon lavoro che vede un buon lavoro anche alle voci, a un coro arrangiato da Robin Selman. Quindi passaggi tradizionalmente neofolk, ma anche affreschi più orchestrali, quadretti effettivamente orchestrali, e anche martial in taluni frangenti di questo Necropolis. Tramps, infect them to the Thames, so the city would be reborn. Some were given in pieces. Si cambia storia, torniamo in Italia. Giulio Fonseca al secolo Go Du Gong, una delle novità provenienti dalla nostra penisola. Lui esattamente viene da Milano, sì, viene da Milano. Questo, se non erro, è il suo terzo lavoro, sta per uscire un quarto dal nome Curaro, mentre questo Indians First è del 2017, un vero e proprio diario di viaggio che Giulio ha fatto nelle Indie, registrando dunque rumori d'ambiente, rumori religiosi, rumori di mercati, rumori di viaggio in genere. L'ha assemblato in questo bellissimo lavoro. E oggi ci ascoltiamo Kali e Ponnum Turu Turu Tu. Benissimo, era dunque Go Do Gong con Giulio Fonseca, questo artista proveniente da Milano. Vera e propria sorta di trance music, molto mantrica e ossessiva al punto giusto. Elementi che qui a Prove Tecniche in trasmissione hanno ovviamente portoni aperti. Salutiamo intanto Dominic Malapel dall'Inghilterra, da Ixitel, credo, questo sia la città. Ciao Dominic, from England. Lasciamo invece Go Do Gong, che ha suscitato più di un entusiasmo, molto fresco e molto muslingoso, aggiungo io. Il grande Muslim Ghost, purtroppo morto in maniera prematura. Un saluto ancora a Stefan da Strasburgo. E proprio in Gran Bretagna noi andiamo attraverso Exas, questo sodalizio tra Syscom di Gaia Donadio e l'altro ex Death in June, come era una volta Tony Wakeford, ossia Patrick O'Kill Ligas. Intanto Dominique, esatto, da Exeter, from England. O Exeter, che dir si voglia, non sappiamo, un piccolo paesino della Gran Bretagna. Torniamo a Exas, dunque, questo è Liberty Nest, questo mini album con Patrick Ligas e Gaia Donadio. Ci andiamo ad ascoltare Beneath the Sun e Me and I. Piace la definizione che ne dà Maya di questi Exas, deliziose bastonate nelle orecchie, aggiungo io, in tono anche alquanto apocalittico. Toni sovraeccitati dunque per Syscom e Anti-Child League in questo Liberty Nest, un mini album di 6 pezzi che speriamo sia il prodromo a un album a lunga distanza. 21:53, onda rossa 87.9 in modulazione di frequenza, prove tecniche di trasmissione che ritorna dopo una settimana di assenza e che andrà avanti sino alle 22:30 più o meno. www.ondarossa.info il nostro sito, anche per usare il nostro streaming stasera, fortunatamente alquanto affollato. Un saluto anche Enrico Cerrato alias Petrolio da Asti. E dunque è il momento di Raffaele Pezzella e la sua Unexplained Sounds The Balkan Perspective, un compendio del 2018 che fa il punto della situazione di una floridissima scena proveniente per l'appunto dai paesi balcanici. Una compilation alquanto varia. E questa sera abbiamo estratto uno dei capitoli più, diciamo, estremi e ruvidi dell'intera compilation, ad opera di Nava Spaziala insieme a Sot 45. E il pezzo si chiama Do the Rage Sham Split. Chiaramente chiedo aiuto a Raffaele per quanto riguarda qualche notizia su questi due progetti insieme in questa traccia. Eccoli qua dunque, Nava Spaziala, che evidentemente vuol dire nave spaziale, e SOT 45.